America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. We now have a bipartisan group of senators who agree with that balanced approach. And we've got the American people who agree with that balanced approach. Barack Obama, finalmente lo abbiamo visto soddisfatto, ottimista. Perché? Beh, perché la Gang of Six, la banda dei sei, sei senatori si sono messi d'accordo in forma bipartisan per cercare di sbloccare l'impasse al Congresso per tagliare il disavanzo pubblico americano ed evitare il famoso default il 2 agosto prossimo. I due leader sono il senatore Mark Warner, che è un democratico della Virginia, e il senatore Saxby Chambliss, che è un repubblicano della Georgia. Altri quattro colleghi li hanno seguiti. Obama ha dato il via libera. Lavoriamo su questo. Si tratterà adesso di convincere la leadership della Camera a seguire questo progetto, cosa non necessariamente facile, perché proprio ieri la Camera ha proposto e passato un altro suo piano completamente separato per tagliare 2.500 miliardi. Il braccio di ferro continua, ma la situazione si chiarisce un po'. Questo piano è più equilibrato, ha detto Barack Obama, perché prevede tagli per 3.700 miliardi, quindi un piano molto aggressivo, molto ambizioso, con grandi tagli nella spesa pubblica, nella spesa sociale, grandi sacrifici, ha detto il Presidente, per noi democratici, che però siamo pronti a fare la nostra parte, ma anche con buoni risparmi dal punto di vista fiscale, perché ci sarà una riorganizzazione della legge fiscale americana e quindi si potranno eliminare una serie di inefficienze nel sistema fiscale americano, nel codice fiscale americano, con l'obiettivo di recuperare una cifra fra gli 800 e i 1.000 miliardi di dollari. Dunque un passo in avanti, accompagnato da ottimi risultati trimestrali per la Apple Computer, che pensate ha fatto 7 miliardi di dollari in un solo trimestre, questo trimestre che si è chiuso e di cui stiamo cominciando ad ascoltare un po' da tutte le aziende americane i risultati. 7 miliardi di dollari che si aggiungono a una posizione di cassa di 80-85 miliardi di dollari. La Apple Computer è sicuramente una delle più ricche società americane. Anche la IBM era andata bene, anche Yahoo è andata bene, anche Google era andata molto bene, e dunque la borsa ha festeggiato ieri con un aumento dell'1,63%, 202 punti di aumento. Si tratta dell'aumento percentuale più alto del 2011. Siamo a quota 12.587. James and I would like to say how sorry we are for what has happened. Rupert Murdoch, è stata la grande giornata ieri anche di Rupert Murdoch, l'audizione a Londra davanti alla Commissione Cultura del Parlamento. Avete sentito la voce di questo anziano editore, uno dei più potenti del mondo, che dice: "This is the most humble day of my career." Mi trovo oggi humbled. Humbled è una parola che in inglese è a metà tra il sentirsi piccini e l'essere un po' umiliati, l'essere avviliti, e quindi lui dice: io mi trovo davanti a voi come una persona piccola davanti a quella che è la rappresentazione della giustizia. Ha ricordato la sua vita, ha chiesto scusa di nuovo per quello che è successo con queste intercettazioni telefoniche, soprattutto quelle di persone deboli, non necessariamente di attori o di grandi celebrità, ma di persone comuni, di persone normali, spesso in gravi difficoltà personali, come la celebre storia di quella povera bambina che fu poi rapita e uccisa e con questi giornalisti che erano riusciti a ottenere il numero e a intercettare questo telefonino, creando naturalmente grande dolore nei genitori che pensavano, speravano, visto che sembrava che questo telefonino fosse attivo, che forse la loro bambina fosse ancora viva. Poi c'è la questione della corruzione. È stata un'audizione, devo dire, ne ho vista una buona parte, molto commovente per certi punti di vista, ma anche molto sobria, perché qui in ballo non soltanto una delle più importanti questioni morali dal punto di vista dell'etica del giornalismo, ma anche il destino di questo leader del mondo dei media e dei suoi figli. E il problema ovviamente è un problema che riguarda l'America. Perché? Beh, perché News Corp ha i quartieri generali qui a pochi isolati dal nostro ufficio, sulla Sesta Avenue con la 48, un enorme grattacielo, e il cuore dell'impero di Murdoch, un impero che vale decine e decine di miliardi di dollari, oggi la capitalizzazione di circa 40 miliardi di dollari, il cuore di questo impero è qui, è in America. E il contagio di questo scandalo in arrivo dalla Gran Bretagna piano piano si sta facendo sentire anche qua. È partita un'inchiesta dell'FBI, c'è il rischio che la Foreign Corruption Practices Act, una legge che prevede la punizione di aziende o di persone che paghino bustarelle all'estero per ottenere per esempio dei favori, dei contratti, in questo caso in Inghilterra sono stati pagati dei poliziotti per ottenere informazioni riservate. Dunque, se qualcuno qui ai quartieri generali a New York era al corrente di questi pagamenti o li aveva autorizzati, beh, per la legge americana rischia grosso. Allora, che succede? Beh, succede che intanto Murdoch ha detto di non essere mai stato assolutamente al corrente di questi dettagli, perché dice quel business in Inghilterra era appena l'1% di quello di cui io mi devo occupare. Francamente non ho il tempo di occuparmi di minuzie di questo genere. Però un piccolo dramma si sta consumando. Le domande sono: dovrà Rupert Murdoch lasciare la guida di questo gruppo? Se deve lasciare la guida di questo gruppo, chi lo sostituirà? Il figlio James? Beh, James ieri è stato molto bravo, però non sembra che questo sia il momento migliore dopo il modo in cui ha gestito, diciamolo malamente, tutta la questione della polemica con News on the World. Non sembra che questo sia il momento per lui di farsi sotto. E dunque Murdoch ha già individuato, dopo aver messo da parte proprio qui a New York Les Hinton, che era il suo braccio destro, ha lavorato con lui, pensate, 52 anni, fin da quando era un ragazzino, a 15 anni, aveva cominciato a lavorare in un giornale di Adelaide, e dunque l'ha fatto da parte, e ci sono un paio di americani. Uno è Chase Carey, che in questo momento è il capo operativo di News Corp, e l'altro è Joe Klein. Joe Klein è stato il capo del Dipartimento Educazione di New York, è stato al Dipartimento della Giustizia con Bill Clinton, si occupava del settore antitrust, pensate, ha lavorato molto vicino con Mario Monti, quando Mario Monti era commissario europeo e quando si occupavano di Microsoft. Perché Klein? Beh, Klein ha un passato giuridico, era stato ingaggiato da Murdoch per occuparsi di educazione, e poi è finita che c'è stato questo scandalo e adesso Klein è diventato veramente il consigliere più fidato, era seduto dietro di lui durante le audizioni. Audizioni che sono state a un certo momento disturbate da questo episodio. Can you just tell me whether or not the Taylor settlement included a confidentiality clause and maybe the other settlement did not? È successo che a un certo punto un signore vestito con una camicia a scacchi si è avvicinato a Murdoch con un piatto pieno di schiuma alla barba e ha cercato di buttarglielo addosso. In effetti ci è riuscito e abbiamo visto soprattutto la moglie Wendy, la moglie di Murdoch, che si è lanciata contro questo signore, devo dire con una forza felina, buttandosi proprio a tuffo contro di lui. La seduta è stata interrotta per 10 minuti e poi è ripresa senza che ci fossero notizie sostanziali, se non quelle che confermavano da parte dei Murdoch e da parte di Rebecca Brooks, che ha guidato la divisione News International, di innocenza. Loro dicono non ne sapevano assolutamente nulla. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed ecco la canzone del giorno. Secondo alcune indiscrezioni, becca in serbo due diversi progetti, mentre collabora con il cantante country Dwight Yoakam per un suo ritorno sulla scena, sta anche pensando di aprire una piccola casa editrice stile anni 60. Di Beck sentiamo una vecchia canzone, Loser. Every